Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. La TV cinese sbarca a New York. Pechino annuncia la nascita di un canale di informazione 24 ore su 24 in lingua inglese che sorgerà a Times Square. Il trattamento dei media occidentali non piace ai leader cinesi. Così, con il nuovo canale che si chiamerà China News Central World, Pechino spenderà alcuni miliardi di dollari per rifarsi un'immagine. Un network cinese nel cuore di Manhattan. La Xinhua New Agency, la principale agenzia di stampa cinese, sta per lanciare un canale di informazione 24 ore su 24 in lingua inglese, la cui sede sorgerà a Times Square. Un'iniziativa che si inquadra nella strategia messa a punto da Pechino per rafforzare la presenza e l'influenza dei media nazionali all'estero. Puntiamo ad avere una visione dell'informazione internazionale, ma con una prospettiva cinese, spiega il presidente di Xinhua, Li Kongjun, annunciando che il canale si chiamerà CNC World. È la conferma che il governo di Pechino è pronto a spendere miliardi di dollari per creare un impero mediatico a livello globale. Le autorità cinesi si sono spesso lamentate per come lo Stato asiatico viene ritratto in maniera erronea dai media occidentali, danneggiando spesso l'immagine e gli interessi politico-commerciali della nazione all'estero. Il nuovo canale avrà una struttura simile a quella di Al Jazeera, il canale di informazione del Qatar, con l'obiettivo di coprire in maniera esaustiva tutti i principali accadimenti internazionali. Secondo gli analisti, la strategia di espansione messa a punto dal governo cinese ha importanti opportunità di successo, perché arriva in un momento in cui i media occidentali, alle prese con un calo degli introiti pubblicitari, sono costretti a ridurre personale e redazioni in giro per il mondo. Mentre i nostri canali di informazione si stanno sciogliendo come la neve al sole, la Cina sta crescendo a 360 gradi, spiega Orville Schell, direttore del Centro per le Relazioni USA-Cina dell'Asia Society di New York ed ex direttore della Scuola di Giornalismo di Berkeley. Vogliono rafforzare le loro credibilità come fonte di informazione mondiale, spiega Schell, e per farlo partono proprio da New York, una piazza strategica e di grande immagine. Per lanciare CNC World, Pechino ha scelto proprio il cuore di Manhattan, ovvero Times Square, dove la sede sorgerà in cima a un grattacielo di 44 piani e accanto ai quartieri generali dei più importanti canali di informazione del mondo, come Reuters, Condé Nast, News Corp e New York Times. L'arrivo del nuovo canale TV è solo una delle operazioni che il governo di Pechino è in procinto di mettere a punto nell'ambito della nuova strategia di espansione mediatica. China Central Television, il più importante network del paese, controllato dallo Stato, ha già avviato una manovra di espansione globale offrendo canali in lingua inglese, spagnola, francese e araba. La Cina ha inoltre finanziato l'acquisizione di China Daily, quotidiano in lingua inglese, e ha lanciato un'edizione sempre in inglese del Global Times, giornale controllato da People's Daily, il principale organo di informazione del Partito Comunista. Non è chiaro, tuttavia, secondo gli esperti del settore, se i media controllati dal governo di Pechino siano in grado di attrarre un'audience ampia e, soprattutto, l'attenzione degli sponsor. In molti sono convinti, infatti, che l'agenzia di stampa cinese, sebbene in fase di espansione, manchi di obiettività, perché talvolta è usata dal Partito Comunista come canale propagandistico. Inoltre, in passato, alcuni media nazionali sono stati accusati di aver forti legami con le agenzie di intelligence. Xinhua è nata nel 1931 come Red China News Agency, ancor prima che il Partito Comunista giungesse al potere, nel 1949, e ad oggi è considerata il canale di informazione preferenziale del governo. L'agenzia ha al suo attivo 10.000 impiegati e 120 redazioni in tutto il mondo, dove sta assumendo personale non cinese, nel tentativo di dare un'impostazione più internazionale alla sua struttura. Secondo gli esperti di Asia Society, Pechino è determinata a presentare la sua agenzia e il nuovo network televisivo come un'alternativa credibile e alternativa ai grandi colossi dell'informazione occidentale, Nonostante i grandi sforzi compiuti sino ad oggi, la Cina è ancora convinta di non essere considerata con la dovuta serietà e credibilità sull'informazione a livello globale, spiega Shell. Il lancio di CNC è un passo in questa direzione, perché vuole occupare gli spazi lasciati vuoti dai media occidentali in declino. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Francesco Semprini, La TV cinese a New York, dalla stampa del 4 luglio. No al fumo nel nome di Buddha. Il Bhutan, remoto regno himalayano di 700.000 abitanti, diventa il primo e unico paese no smoking al mondo. Una legge prevede da 1 a 3 anni di carcere per chi vende sigarette e sigari, considerati veleno per corpo e mente. La sfida del paese che ha inventato la felicità interna lorda contro i veleni della globalizzazione è giunta forse alla fase più delicata. Sono passati appena 40 anni dalla costruzione delle prime strade, 11 dalla sofferta introduzione della TV, poco più di 2 dalle prime elezioni politiche. I principi che ispirano i governanti del remoto regno himalayano del Bhutan sono tratti dalle regole di una delle più antiche scuole buddiste, la Drukpa Kagyu. Importata dal Tibet nel 1100 e diventata religione di Stato nel XVI secolo, la tradizione di maghi e santi di questa scuola condiziona ogni aspetto della vita sociale e politica del regno. Ovunque, in grotte e monasteri incastonati nel verde di valli mozzafiato, eremiti e lama impartiscono, come avveniva 1000 anni addietro, insegnamenti a contadini, aristocratici e re. Tra i più rigidi tabù etici e religiosi c'è quello del fumo, considerato un veleno per il corpo e per la mente. Per questo, dopo un primo tentativo fallito nel 2004, nei giorni scorsi è stata approvata l'unica legge al mondo di divieto assoluto di vendita delle sigarette, non senza polemiche e resistenze della minuscola opposizione parlamentare. Le nuove norme prevedono da 1 a 3 anni di carcere per chi vende sigari e sigarette, mentre chi le importa di contrabbando ne sconterà dai 3 ai 5. Manca solo la firma del giovane re, Jigme Khesar, più che scontata. A differenza di 6 anni fa, quando un'analoga norma era rimasta largamente inapplicata, questa volta sembra che le autorità facciano davvero sul serio. Teoricamente il consumo personale non è punito e saranno autorizzate quote individuali con uno speciale permesso di importazione, sia per i residenti tabagisti cronici che per i turisti giunti con le agenzie di viaggio. Ma secondo il leader dell'opposizione, Tsering Tobgay, la legge contiene parecchie contraddizioni, come quella di permettere il consumo e di punire la vendita, un fatto che creerà una grave confusione. Inoltre, spiega Tobgay, chi vende un solo pacchetto può essere punito come chi ne contrabbanda intere partite, senza contare che il precedente divieto aveva provocato, come potrebbe accadere stavolta, un'impennata dei prezzi delle sigarette al mercato nero. Con un'economia ancora legata prevalentemente all'agricoltura e alle foreste, anche le regole che governano il Bhutan sembrano provenire da un altro tempo e da un altro universo. Sono incentrate infatti su un obiettivo apparentemente ultrautopico, così illustrato nel 1972 dall'ex sovrano, Jigme Singye Wangchuck. Invece di calcolare il prodotto interno lordo, disse il re, noi useremo il parametro della felicità interna lorda. E poco importa se per mantenere un tasso accettabile di armonia sociale e una crescita reale del PIL del 24% annuo, sono stati cacciati nell'ultimo ventennio oltre 100.000 uomini e donne di etnia nepalese Lhotshampa, vissuti per millenni tra le stesse montagne. Per i 700.000 sudditi di puro ceppo bhutanese rimasti nel regno, il tasso di benessere è stato calcolato, oltre che sui più o meno acquisiti diritti alla casa, al lavoro e all'educazione, sull'impatto ambientale della tecnologia, ridotta al minimo indispensabile. Unica eccezione, la costruzione di grandi dighe per vendere alla principale partner commerciale del regno, l'India, l'acqua delle sorgenti himalayane. È grazie infatti a questa determinante fonte di introito, seconda solo all'agricoltura, che il Bhutan può vantare uno dei più alti tassi di reddito pro capite dell'intera regione. La sfida tra modernità e tradizione è sempre stata in Bhutan una questione d'orgoglio nazionale. Così, accanto al divieto di fumo, adesso, dopo la TV, è la volta di Internet. che approda per la prima volta in contrade nascoste e inaccessibili attraverso gli uffici postali, dotati d'ora in poi di una connessione satellitare alimentata da batterie solari. I primi sono in costruzione proprio in questi giorni in regioni così isolate che una lettera può impiegare, spesso a cavallo, settimane, se non mesi, per raggiungere la sua destinazione. I nuovi post office offriranno anche ai giovani montanari la possibilità di accedere a programmi di studio online. Una vera rivoluzione per il piccolo Bhutan. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Raimondo Bultrini, Bhutan, no al fumo nel nome di Buddha, dalla Repubblica del 2 luglio.